Lasciato alle spalle quel delizioso frutteto, stavamo per prendere il treno che doveva riportarci a Parigi, quando alla stazione Rachel, che camminava qualche distanza da noi, fu riconosciuta e interpellata da alcune sgualdrinelle, genere cui lei stessa apparteneva, le quali, credendola sola, le gridarono: «Ehi, Rachel, perché non sali con noi? Lucienne e Germain sono già in treno e c'è posto. Vieni, andremo tutti insieme a pattinare!» S'apprestavano a presentarle i loro amanti, due commessi di merceria a cui si accompagnavano, quando, di fronte al leggero impaccio di Rachel, allargarono con curiosità lo sguardo, ci avvistarono e, scusandosi, la salutarono, ricevendone in cambio un saluto un po' imbarazzato ma amichevole. Erano due povere sgualdrinelle, con certe mantelline di finta lontra e l'aspetto più o meno che aveva la stessa Rachel al tempo in cui Saint-Loup l'aveva incontrata per la prima volta. Robert non le conosceva, neppure di nome, e vedendole in grande intimità con la sua amica, gli venne in mente che questa, forse, aveva avuto un suo ruolo, e forse l'aveva ancora, in una vita insospettata, ben diversa da quella che conduceva con lui, una vita in cui si potevano avere le donne per un Luigi, mentre lui a Rachel dava più di 100.000 franchi all'anno. E non solo intravide quella vita, ma anche in essa una Rachel affatto diversa da quella che conosceva, una Rachel simile a quelle due sgualdrinelle, una Rachel da 20 franchi. Insomma, per un istante, Rachel gli si era sdoppiata davanti agli occhi e a pochi passi dalla sua Rachel aveva scorto la Rachel sgualdrinella, la Rachel reale, ammesso in un concesso, ben inteso, che la Rachel sgualdrina si potesse definire più reale dell'altra. Il cervello di Robert fu probabilmente attraversato in quell'istante dal pensiero che, forse, l'inferno in cui viveva, con la prospettiva e la necessità di un matrimonio di interesse, di una messa in vendita del suo nome per poter continuare a spendere per Rachel 100.000 franchi all'anno, non gli sarebbe stato difficile sottrarsene e godere dei favori della sua amante per pochi spiccioli, come quei commessi con le loro puttane. Ma come fare? Rachel non l'aveva deluso in nulla. Meno viziata, sarebbe stata meno carina, non gli avrebbe più detto, non gli avrebbe più scritto quelle cose che lo commuovevano tanto e che citava non senza ostentazione ai suoi colleghi, avendo cura di sottolineare le gentilezze di lei, ma omettendo di aggiungere con quanto fasto lui la mantenesse, anzi, tacendo del tutto che le passava del denaro e che quella certa dedica su una fotografia, quella certa chiusa di un telegramma, non erano che il trasmutarsi di 100.000 franchi nella più concentrata e preziosa delle forme. Se si guardava bene dal rivelare che le rare gentilezze di Rachel lui le pagava, sarebbe però sbagliato dedurne, eppure è questo il semplicistico ragionamento cui assurdamente si ricorre per tanti mariti, per tutti gli amanti avvezzi a scucire, dedurne che lo facesse per amor proprio, per vanità. Saint-Loup era abbastanza intelligente per rendersi conto che tutti i piaceri della vanità li avrebbe trovati senza difficoltà e gratis nel suo stesso mondo, grazie al grande nome, al bel volto di cui disponeva, e che da quel mondo la sua relazione con Rachel, per contro, l'aveva un po' estromesso, facendovi calare le sue quotazioni. No, l'amor proprio che ci induce a fingere gratuiti i segni di predilezione che riceviamo dalla donna amata è semplicemente un derivato dell'amore, il bisogno di rappresentarci a noi stessi e agli altri amati da chi tanto amiamo. Rachel si avvicinò a noi, lasciando che le due squattrine salissero nel loro scompartimento, ma al pari della loro finta lontra, al pari della goffaggine dei commessi, i nomi di Lucienne e Germain mantennero per un istante in vita agli occhi di Robert la nuova Rachel. Per un istante egli si immaginò un'esistenza da plus pigaille, con amici sconosciuti, con sordide avventure, con pomeriggi di piaceri ingenui in una Parigi dove persino i raggi del sole sulle strade che si dipartono dal boulevard de Clichy gli parvero non dover essere gli stessi che illuminavano le sue passeggiate con l'amante, perché l'amore e la sofferenza, che fa tutt'uno con esso, hanno, come l'ubriachezza, il potere di renderci diverse le solite cose. Fu quasi d'un'altra Parigi, nel bel mezzo di Parigi, che egli ebbe il sospetto. Il suo legame gli apparve come l'esplorazione di una vita straniera, giacché se Rachel, quando gli era vicina, gli assomigliava un po', era pur sempre una parte della sua vita reale che Rachel viveva assieme a lui. Anzi, a causa delle folli somme di denaro che le prodigava, la parte più preziosa, la parte che la rendeva oggetto di tanta invidia da parte delle amiche e che, un giorno, le avrebbe consentito di ritirarsi in campagna o di lanciarsi nei grandi teatri dopo aver messo da parte un bel gruzzolo. Robert avrebbe voluto chiederle chi erano Lucienne e Germaine, che cosa si sarebbero dette se fosse salita nel loro scompartimento, come avrebbero passato, lei e le sue amiche, una giornata assieme, una giornata destinata forse a culminare, dopo i piaceri del pattinaggio, nel divertimento supremo della taverna dell'Olimpia, se lui, Robert e io non ci fossimo trovati lì. Per un istante, i paraggi dell'Olimpia, che gli erano sempre parsi opprimenti, eccitarono la sua curiosità, la sua sofferenza, e il sole di quel giorno primaverile, risplendente sul Rue Camorton, dove, forse, se non avesse conosciuto Robert, Rachel sarebbe andata quel pomeriggio a guadagnarsi un Luigi, gli ispirò una vaga nostalgia. Ma a che scopo interrogare Rachel se sapeva in anticipo che la risposta sarebbe stata o un semplice silenzio o una menzogna o qualcosa di penosissimo per lui, ma tale tuttavia da non evocargli nulla? I controllori stavano chiudendo gli sportelli, salimmo svelti in una vettura di prima, le magnifiche perle che lei portava al collo ricordarono a Robert che Rachel era una donna di gran pregio, le fece una carezza, l'accolse nuovamente nel proprio cuore, dove la contemplò, interiorizzata, come aveva sempre fatto fino a quel momento, eccettuato il breve istante in cui l'aveva vista sullo sfondo di una Place Pigalle da quadro impressionista, e il treno partì. Era vero del resto che Rachel era tutta letteratura. Non smise di parlarmi di libri, di Art Nouveau, di tolstoismo, se non per rimproverare Saint-Loup perché beveva troppo vino. «Ah, se tu potessi vivere un anno con me, vedresti, ti farei bere acqua e la tua salute ci guadagnerebbe. D'accordo, allora andiamo via. Ma lo sai che ho molti impegni di lavoro?» Rachel prendeva sul serio l'arte drammatica. «E poi, cosa direbbe la tua famiglia?» E si mise a fare, a proposito della famiglia di Robert, dei rilievi, che mi parvero peraltro giustissimi, ai quali Saint-Loup, pur dissentendo da Rachel circa lo champagne, aderì senza riserve. Io, che paventavo per lui le conseguenze del bere e sentivo come potesse essere benefico l'influsso dell'amante, stavo quasi per consigliargli di mandare al diavolo la famiglia. Quando commisi l'imprudenza di accennare a Dreyfus, negli occhi della giovane donna spuntarono le lacrime. «Quel povero martire!» disse trattenendo un singhiozzo. «Ce lo faranno morire!» «Rassicurati, Zezette, tornerà, lo assolveranno. L'errore verrà riconosciuto. Ma intanto lui sarà morto. Beh, i suoi figli almeno porteranno un nome senza macchia. Ma pensare a quello che gli tocca patire, questo mi uccide. E secondo voi, che la madre di Robert, una donna pia, dica che Dreyfus deve restare all'isola del diavolo, anche se innocente, non è una cosa orribile?» «Sì, è verissimo, dice proprio così», confermò Robert. «E mia madre, niente da eccepire, certo però che non ha la sensibilità di Cosette». In realtà, quelle colazioni così carine andavano sempre malissimo. Appena si trovavano insieme in un luogo pubblico, Saint Loup si immaginava che l'amante guardasse tutti gli uomini presenti, si incupiva. Lei, accorgendosi del suo malumore, si divertiva forse ad attizzarlo o, più probabilmente, urtata dal suo tono, non voleva, per stupido amor proprio, dargli l'impressione che cercasse di placarlo. Faceva finta di non staccare gli occhi da questo o quell'uomo, e non sempre d'altronde era per gioco. In effetti, che il signore cui, a teatro o al caffè, venivano a trovarsi vicini, o semplicemente il cocchiere del fiacre su cui erano saliti avesse qualcosa d'attraente, Robert, reso sensibile dalla gelosia, l'aveva notato prima dell'amante. Immediatamente vedeva in lui uno di quegli esseri immondi di cui mi aveva parlato a Balbec, che per proprio divertimento pervertono e disonorano le donne. Supplicava l'amante di distogliere lo sguardo e così facendo glielo indicava. Ora, qualche volta Rachel doveva riconoscere a Robert tanto buon gusto nell'esercizio dei suoi sospetti che finiva addirittura col rinunciare a punzecchiarlo, in modo che lui, messosi tranquillo, acconsentisse ad andare altrove a sbrigare qualche commissione, lasciandole così tutto il tempo di attaccare discorso con lo sconosciuto, spesso di prendere un appuntamento, più raramente di togliersi subito il capriccio. Non mi sfuggì, sin dal nostro ingresso nel ristorante, l'aria preoccupata di Robert. Aveva subito notato, infatti, mentre a Balbec non ce n'eravamo accorti, che rispetto alla volgarità dei suoi colleghi, Aimé sprigionava, con modesto e del tutto involontario splendore, quel tanto di romanzesco che si riconnette, per un determinato numero d'anni, a una capigliatura soffice e a un naso greco, grazie ai quali egli si distingueva in mezzo alla folla degli altri camerieri. Costoro, quasi tutti di una certa età, incarnavano esemplari straordinariamente marcati e sgradevoli di curati ipocriti, di confessori melliflui o, più spesso, di vecchi attori comici, la cui fronte a pan di zucchero non si ritrova quasi più, ormai, se non nelle collezioni di ritratti esposti nei ridotti umilmente storici di teatrini in disuso, dove essi sono effigiati nei panni di camerieri o di grandi pontefici e il cui tipo solenne quel ristorante sembrava perpetuare grazie a un reclutamento selezionato e, forse, a procedure di nomina ereditarie in una sorta di consesso augurale. Disgraziatamente, proprio Aimé, avendoci riconosciuti, venne a prendere le nostre ordinazioni, mentre il corteo dei grandi sacerdoti da operetta defluiva verso altri tavoli. Aimé si informò della salute di mia nonna, io gli chiesi notizie di sua moglie e dei suoi figli. Me le diede con calore perché era un uomo tutto dedito alla famiglia. Aveva un modo di fare intelligente, energico, ma rispettoso. L'amante di Robert si mise a guardarlo con una strana attenzione. Ma gli occhi infossati di Aimé, che da una lieve miopia traevano una sorta di profondità dissimulata, non tradirono alcuna emozione nel volto rimasto immobile. Nell'albergo di provincia, dove aveva lavorato parecchi anni prima di andare a Balbec, i bei tratti, adesso un po' ingialliti e affaticati, del suo viso, che per tanto tempo, come una certa stampa raffigurante il principe Eugenio, si era trovata sempre allo stesso posto in fondo a una sala da pranzo generalmente vuota, non dovevano aver attirato molti sguardi curiosi. In mancanza d'amatori, egli era rimasto dunque lungamente ignaro del valore artistico del suo viso e poco incline d'altronde a metterlo in risalto per freddezza di temperamento. Al massimo qualche parigina di passaggio, fermatasi una volta in quella città, gli aveva messo gli occhi addosso, gli aveva chiesto di venire a servirla in camera prima di riprendere il treno e nel vuoto traslucido, monotono e profondo della sua esistenza di buon marito e cameriere di provincia, aveva sepolto il segreto d'un capriccio senza futuro che nessuno sarebbe mai andato a cercarvi. E me dovette accorgersi, tuttavia, dell'insistenza con cui gli occhi della giovane artista restavano fissi su di lui. In ogni caso, quell'insistenza non sfuggì a Robert, sotto il cui viso vedevo ammassarsi un rossore non vivo come quello che l'imporporava se era colto da un'emozione improvvisa, bensì debole, a chiazze. «Quel maître è proprio tanto interessante, Zezette?» chiese all'amante dopo aver congedato Aimé in modo abbastanza brusco. «Si direbbe che tu voglia fargli il ritratto». «Oh, eccolo che comincia, ci avrei scommesso!» «Ma comincia che cosa, piccina mia? Se ho torto, benissimo, come non detto. Ma avrò pure il diritto di metterti in guardia contro quel servitorello che conosco dai tempi di Balbec, se no me ne infischierei solennemente, e che uno dei peggiori farabutti mai spuntati sulla faccia della terra».